La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì 24 di luglio, sono le 16.34 primi 22 secondi, siamo in diretta dagli studi qui di Radio 24 di Milano, con un bel freschetto, qui almeno non sembra per niente luglio, ma non ci lamentiamo, tanto è inutile. Allora, vado subito all'argomento del giorno. Come promesso l'altro ieri, questa puntata è in ideale e concreta prosecuzione del discorso che abbiamo cominciato l'altro ieri su una riflessione che vi coinvolge, quindi diteci come la pensate all'800240024 e per gli sms 349-238-6666. Su questo quadro che oramai è abbastanza definito nei numeri di fronte a noi, cioè il quadro di una crescita italiana che quest'anno non vedrà in buona sostanza una sostanziale ripresa, si è aggiunto ai numeri che già davamo due giorni fa, cioè una stima della Banca d'Italia annuale sulla crescita attesa 2014 del PIL più 0,2, si è aggiunto intanto da parte del Centro Studi di Confindustria ieri una valutazione praticamente di crescita attesa piatta, 0% quest'anno, siamo resi da un meno 1,9 l'anno scorso, previsioni di inizio anno tenevano conto di un andamento internazionale che nell'andare avanti dei mesi si è raffreddato, nel senso che i paesi in crescita crescono meno delle attese, anche la crescita americana ieri è stata rivista al ribasso per l'ennesima volta intorno a un più 1,7 quest'anno, che per carità noi lo sogniamo col cannocchiale, ma rispetto al 2,8 delle previsioni di inizio anno è molto più basso, eccetera eccetera eccetera. Allora, stante questo quadro e al netto delle polemiche politiche, anche oggi al Senato, sapete, si va avanti con lo scontro sugli emendamenti che le opposizioni avanzano a migliaia nei confronti della riforma costituzionale, e il governo anche stamane, il ministro Boschi, ha ribadito o li ritirate a migliaia oppure non se ne parla di modificare il testo del governo, quindi si va avanti a oltranza 9-24, vedremo che cosa succederà. Il capo dello Stato anche ieri sera, ricevendo il Presidente del Senato Grasso, si è detto molto preoccupato, ha invitato le opposizioni a diminuire gli emendamenti, ma al netto delle polemiche politiche bisogna un po' cambiare la testa, ci siamo detti l'altro ieri con il nostro ospite che è anche oggi insieme a noi, cioè bisogna ragionare sul fatto che con ogni probabilità, purtroppo, abbiamo di fronte a noi un percorso ancora lungo di crescita che non sarà del 2 e tantomeno del 3% l'anno, ma che faticherà ad arrivare all'1% l'anno, stante gli squilibri che abbiamo accumulato, i ritardi che abbiamo accumulato di produttività comparata, di bassissima partecipazione al mercato del lavoro. Pensate che se volessimo raggiungere il tasso di occupazione dei paesi scandinavi dovremmo aggiungere 12 milioni di persone al lavoro rispetto ai 23 scarsi che oggi sono ufficialmente al lavoro in Italia, ma quando anche volessimo raggiungere la Germania dovremmo aggiungercene più di 6 milioni. Ecco, allora, per fare tutto questo ci bisogna un periodo lungo, in questo periodo lungo bisogna cambiare la testa. Nella puntata dell'altro ieri, quando vi abbiamo chiesto ma ci credete o meno voi alle elezioni anticipate, anche ieri ve l'ho chiesto, pensate che sia meglio riandare a votare piuttosto che tentare di fare buone riforme, ma sapendo che in un periodo è lungo, ecco, l'altro ieri abbiamo iniziato a fare un pezzo di questo ragionamento. Visto che c'è molto patrimonio in Italia, molto in mattoni, ma non solo in mattoni, bisogna iniziare a cambiare la testa, e bisogna avere anche incentivi pubblici per aiutare tutti a cambiare la testa su come si utilizza questo patrimonio, bisogna allungare la visione di un utilizzo che abbia una redditività più elevata di tutto questo patrimonio attualmente mal utilizzato, una specie di enorme mano morta il cui valore negli ultimi due anni ha iniziato anche a scendere. E quindi abbiamo fatto questo ragionamento, abbiamo detto agli imprenditori: guardate che anche voi dovete ricapitalizzare le vostre aziende, quindi invece di tenere soldi fuori o di tenerle sotto patrimonializzate metteteci soldi dentro, e anche se i margini sono bassi, il ritorno è basso oggi, la domanda non tira, o lo fate adesso o altrimenti le imprese continueranno ad avere la moria che è sotto i nostri occhi. Oggi tentiamo di entrare al di là del patrimonio, di questa visione di lungo periodo, quindi di pensare alla generazione che viene dopo, che stiamo ovviamente depauperando anche dal punto di vista ormai reale, non solo nominale, del patrimonio che erediterà. Vediamo un pochino invece, per tentare di migliorare i flussi del PIL, di reddito, di occupazione, di anno in anno, che cosa significa cambiare cambiare la testa. Ecco, e il nostro ospite è lo stesso dell'altro ieri, insegna strategia d'impresa, economia aziendale alla SDA, la scuola di direzione aziendale, alla Bocconi, professor Carlo Alberto Cannavale Maffè, grazie di essere con noi anche oggi pomeriggio. Grazie a voi e buonasera. Allora, dopo il patrimonio e la patrimonializzazione delle imprese, facciamo un altro passo avanti. In realtà le sue previsioni e le sue proposte, se toccasse a lei decidere su come si fa a migliorare un po' più rapidamente i flussi dell'economia italiana, da dove comincerebbe? Ma dal chiedere un po' più di capitalismo e un po' meno di benerifugismo, se posso usare una parola nuova, perché abbiamo parlato, come abbiamo visto in questi anni, troppo di reddito e PIL che non si muove e poco di patrimonio, e all'interno del patrimonio abbiamo parlato poco di asset e troppo di debito, e abbiamo parlato troppo di debito pubblico e troppo poco di asset privati. Quindi il vero tema è che sugli 8-9 mila miliardi di ricchezza lorda degli italiani, se estraessimo anche soltanto 20 punti base, e che questi 20 punti base in più di efficienza del patrimonio venissero effettivamente spesi o investiti, tireremmo fuori un bel punto di PIL in più. Quindi la grande sfida che sta sull'agenda degli italiani, nel senso di famiglie e imprese, non voglio scrivere l'agenda del governo, anche perché poi non la legge, come dire, fanno altro. Vorrei proprio parlare agli ascoltatori, a quelli che ci ascoltano e che hanno il potere, perché sono ancora liberi per un po' di allocare il proprio patrimonio. Quindi il vero tema è, così come noi chiediamo allo Stato di rivedere la struttura della spesa pubblica perché è inefficiente, è giusto chiedere agli italiani di rivedere la struttura dell'allocazione del proprio capitale, perché è inefficiente. Quindi in questo senso dire ci serve un po' di capitalismo e non di benerifugismo, perché finché abbiamo tutti paura e cerchiamo benerifugio, l'unico rifugio che troviamo è quello del fisco, il quale ci ringrazia di aver messo i nostri capitali nei posti più fiscalmente facili da saccheggiare. Quindi questo può, se vuoi, la premessa. Grande famiglia italiana, rimetti mano alla locazione storica del tuo patrimonio. Noi abbiamo la locazione del patrimonio la più statica, la più rigida e la più inefficiente d'Europa, anche se qualche segnale si coglie, perché finalmente in questo ultimo mese di giugno, per esempio, la raccolta dei fondi comuni di investimento ha ritoccato massimi che non si vedevano da 10 anni. Questa è una buona notizia, perché finalmente la gente capisce che deve rimuovere capitali da allocazioni inefficienti e cercare professionalità. Non basta però, perché quei 57 miliardi di raccolta netta del primo semestre 2014 sono nulla rispetto alle migliaia di miliardi che andrebbero riallocati. Questo è un pochino il mio punto. Quindi a me piacerebbe sentire dagli ascoltatori se sono disposti a rivedere radicalmente l'allocazione del patrimonio della famiglia, incluso la grande quota, sappiamo che è circa 84% dell'attività reale delle famiglie italiane, ci dice Banca d'Italia, che oggi è messa in abitazioni e che deve, dicevo, accorciare il suo orizzonte perché diventare più funzionale, facendo invece allungare l'orizzonte temporale, quindi la maturità degli investimenti produttivi, degli investimenti in impresa fondamentalmente. L'investimento più produttivo che gli italiani possono e debbono fare è mettere i loro soldi in imprese italiane che credano in questo paese. Allora, due osservazioni brevi da parte mia. La prima agli ascoltatori è un consiglio: se avete tempo, e vi posso consigliare che vi arrabbierete nel farlo, ma se avete tempo, perché ci vuole tempo purtroppo, andate a consultare, perché dalla fine di giugno si può fare, il portale nel quale mese per mese, in teoria, tutte le amministrazioni pubbliche italiane sono obbligate a iscrivere le loro spese. Si chiama www.siope.it. Ripeto, ci vuole tempo, bisogna essere un po' smanettoni, bisogna avere un'idea di come è fatto il bilancio dello Stato, però vale la pena di farlo. Vi dico solo questo: se andate a vedere nel conto aggregato però del solo Stato, non delle amministrazioni periferiche e di tutti gli enti pubblici, che sono migliaia nel nostro paese, sono oltre 9.000 i diversi soggetti che rientrano nella sfera della PA allargata, ecco, andate a vedere nel solo mese di giugno spese dello Stato, troverete il totale delle spese, che è di circa 24,9 miliardi nel solo mese di giugno del 2014, ma osserverete che in oltre 430 voci diverse di aggregazioni della spesa, spesa corrente, spesa in trasferimenti, spesa in investimenti, interessi passivi, interessi attivi, c'è tutto. Se sommate le diverse poste che sono identificate come altro o somme non altrove classificate, supererete il miliardo su 24,9 miliardi di spese. Ecco, questo è il massimo della trasparenza che abbiamo della spesa pubblica nel nostro paese. Pensate che vale per un solo mese, ma non sapere in che cosa consiste un ventesimo della spesa pubblica, fatevi il conto di una spesa che è di 800 miliardi, un ventesimo sono 40 miliardi, da solo l'abolizione dell'IRAP più un bel pezzo di IRES che se ne va. Ecco, questo è il massimo che siamo riusciti a ottenere nel nostro paese. Naturalmente i conti delle vostre famiglie sono tenuti in maniera da voi e quelli delle imprese ben diversamente precisi, ma questo è il massimo. La seconda osservazione, che invece giro al professor Alberto Canavella Maffè, deriva dalle mail che abbiamo ottenuto dopo la prima puntata, perché sul punto da cui lei è ripartito, ma sono disposto gli italiani, non è un sondaggio rappresentativo, ma la maggioranza degli sms e delle mail che ci sono arrivate dicevano: ma mi convince il ragionamento del professor Canavella Maffè, ma il problema è che io a smobilizzare oggi in banca o il mio consulente mi dice che ci perdo troppo. Siamo al solito problema: non vendere quando il prezzo ti dicono che è basso. Ma il problema però è che il prezzo è quello che ti offre il mercato, questo è quello che dico io. Però la domanda al professor Canavella Maffè: è vero che bisogna vincerla questa preoccupazione, accontentarsi del prezzo che c'è oggi, perché comunque prevale la necessità di riorientare parecchia parte della propria immobilizzazione di capitale, del proprio patrimonio ereditato o costituito nei decenni in cui si è lavorato? Bisogna vincerla o no questa preoccupazione? Però spieghiamo il perché razionalmente. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:46:52, breve flash di almeno alcuni degli tantissimi sms. Il professor Canavella Maffè ci fa arrivare tantissimi sms sui temi e modo in cui parla. Alcuni parlano di politica, ne leggo solo uno: andiamo al voto piuttosto che andare avanti con riforme tipo quelle del Senato, che non intaccano in nulla i problemi economici di cui state parlando. Sono parecchi a dire che non hanno paura del voto. Tanti altri invece sono sul punto, su cui ho già fatto la domanda leggendoli prima a Canavella Maffè, cioè esattamente dicono: c'è un disoccupato che ci dice sì, è vero, io ho un po' di risparmi da parte, però che cosa vuol dire in concreto, visto che io oggi il lavoro non ce l'ho, prima che ai miei figli devo pensare a trovare un reddito fuori dal lavoro dipendente che non me lo dà più, quindi in che cosa consiste il riorientarli? Altri tantissimi proprietari di immobili che dicono: ma adesso ci rimettiamo, li avevo già visti. Allora tentiamo di dare una risposta a questi: perché razionalmente devono convincersi a farlo, professore? Cominciamo col dato aggregato. Banca d'Italia ci sta dicendo che per la prima volta dall'inizio dell'euro il capital gains, cioè i guadagni in conto capitale delle attività reali, quindi diciamo case, terreni, attività reali, sono stati completamente invertiti rispetto al capital gains delle attività finanziarie. Come diciamo, le seconde sono state sostanzialmente positive, le prime hanno perso 2 punti nel 2011, 5 punti nel 2012 e via dicendo. Quindi c'è una forte divaricazione dei capital gains, quindi c'è di fatto una distruzione di ricchezza netta, distruzione in corso, ok? Di ricchezza netta. E più andiamo avanti, più attività reali in un paese che non cresce così rischiano di vedersi erodere il problema. Quindi se teniamo lì ci becchiamo ulteriori perdite in conto capitale. Quindi questo dato aggregato. L'altro dato che volevo dare è sostanzialmente il dato proiettivo, cioè in particolare siccome le nostre attività reali sono per l'84% in mattone, la gente non lo sa che cosa costa stare fermi. E lì il mio consiglio: andate sul sito dell'Agenzia del Territorio, controllate quelle che si chiamano gli user cost, lo calcolano, cioè l'insieme del tasso di interesse a cui rinunciate, quindi quello che lo chiamo il costo opportunità del capitale, siccome i soldi invece che investirli in fondi di investimento li tenete in casa, rinunciate a quel tasso di interesse. Poi c'è IMU e TASI, ci sono certamente le detrazioni se avete dei mutui, però c'è il tasso di deprezzamento dell'immobile, c'è il trend del mercato immobiliare, c'è un premio al rischio, c'è un costo di manutenzione di cui dobbiamo anticipare le rate. Risultato finale, vi do due numeri, ecco: nel 2012-2013 tenersi una casa, prima casa a Firenze, costava l'8% all'anno, costava, cioè solo a star fermi, cioè stiamo distruggendo o comunque stiamo pagandoci il nostro immobile l'8% all'anno. Questo è l'invito, perché se voi guardate il prezzo come dato puntuale oggi, è chiaro che dite vabbè, ci perdo, ci guadagno, mi interessa meno, perché il problema qual è dal punto del capitalismo? Quello che è passato, sunk cost, andiamo a fare la proiezione del nostro asset per il periodo di tempo che riteniamo di volere, come dire, conservare, in cui riteniamo di volerci conservare, è una casa tipicamente una proiezione molto lunga, no? Bene, se noi facciamo questa proiezione, cioè se noi teniamo posizione, sappiamo che incorreremo ragionevolmente in questi user cost. Questo è questo a cui dobbiamo guardare, confrontandolo con l'eventuale, ovviamente eventuale, redditività di un'altra allocazione. Ora, io non faccio promotore finanziario e me ne guardo bene, no? Però vi invito tutti a, quindi, o a cambiare promotore finanziario se uno vi dice questa cosa qua, o cambiare banca, o sentire più voci, o a mettere sul tavolo non il singolo asset o una casa, cosa faccio, ma a fotografare per la prima volta tutto il perimetro di patrimonio familiare, metterlo tutto sul tavolo e chiedere alle banche un consiglio complessivo collocandolo sul proprio ciclo di vita, proprio della propria famiglia. È il momento di farlo, anche perché in autunno e l'anno prossimo partirà la più grande aggressione al patrimonio privato degli italiani mai tentata dal dopoguerra, dovendo noi pagarci fiscal compact. Quindi fatelo adesso, perché è il momento di riallocare. L'idea che guardiate soltanto ai prezzi del passato è del tutto inaffidabile e inefficiente. E controllate appunto quindi gli user cost, diciamo, in futuro. Allora, io sono integralmente d'accordo con l'invito fatto a voi a ripensare a quello che avete, e adesso faccio una considerazione divisa in due che giro come domanda al professor Carnevale Maffè. Molti, diciamo, la politica si divide in due, abbiamo visto le europee, quelli che dicono no, per ripartire sui flussi eccetera eccetera c'è bisogno di un cambio diverso dell'euro, c'è bisogno, dicono tanti altri, di tornare a svalutare, riprendiamoci la sovranità monetaria, insomma la via della liretta, e chiamiamola così, io dico la via della liretta tutto quello che pensa che la crescita si farà con recupero in termini nominali, cioè l'inflazione può essere, si può creare in tanti modi, ma c'è metà della politica quasi che ragiona così, l'altra metà continua a dire beh no, però intanto si può tornare a tassi di crescita ai quali io non credo a breve, 2-3%, se cambiamo alcune regole del gioco, tipo il mercato del lavoro. Noi andiamo avanti dall'inizio degli anni 2000 a cambiare, abbiamo fatto due puntate, a cambiare a margine le regole del mercato del lavoro, perché poi cambiamenti sostanziali non riusciamo mai a farli, e i risultati li abbiamo visti. Gli incentivi del governo Letta hanno avuto risultati pari al 28% di quelli promessi, la garanzia giovani che è in corso, secondo me sarà un flop, i numeri dicono che attualmente sta andando un flop, e io neanche a questa cosa credo, perché siccome non c'è un'anima davvero liberista, non c'è il consenso per farlo, non ci credo neanche a questa cosa. Però vorrei sapere al professor Carnevale Maffè come la pensa su queste due offerte della politica, una quella nominale, l'inflazione, e l'altra le finte riforme delle regole del gioco. Però prima della risposta del professore, due rapidi incursioni ai nostri ascoltatori con Alessandro da Novara. Prego Alessandro, come la pensi? Sì, salve, buonasera e buonasera al suo ospite. Ma io sono sostanzialmente d'accordo con quello che diceva il professore e con quello che dice lei, però trovo che tutte queste misure a livello politico e anche per quanto riguarda la riallocazione... No, quelle sono scelte individuali, noi crediamo nella scelta individuale senza aspettare più troppo la politica, quindi sono due cose diverse. Trovo anche questo cambiamento culturale che c'è, diciamo che sarebbe una precondizione strutturale di quelle che sono i cambiamenti delle e ci crede poco? Ci credo poco, e soprattutto ci sarà un effetto nel lungo periodo, quindi si parla di anni, no? E ci credo molto poco, perché gli italiani sono legati molto all'investimento immobiliare. Però Alessandro, guarda, gli italiani stanno capendo che ci perdono, quindi secondo me, per questo chiedo al professore di continuare a spiegarlo, e ci perdono più del valore rispetto al prezzo di acquisto o di rivendita potenziale di quando le cose andavano bene, ci perdono stando fermi, questo è quello che dobbiamo spiegare alla gente, dicendo fatevi conti su quello e capite che adesso è il momento di smobilizzare, perché non è che ci rimettete sul prezzo ideale a cui pensate che si arriverà non si sa quando, voi ci rimettete per i costi fissi che adesso dovete comunque incorporare nella gestione del bene, e che non sarebbero altrettanto elevati se invece voi faceste adesso la scelta dello smobilizzo e di una riallocazione che serve per la vostra crescita del reddito familiare e quindi cumulata per l'intero paese. Alessandro, quindi scettico, sentiamo Fabio da Empoli. Fabio. Sì, il professore, buonasera, il professore ha centrato un punto, e cioè che gli asset degli italiani devono rendere di più. Sì. E ha fatto una considerazione, sì. 20 punti base fanno grosso modo un punto di PIL, circa 16 miliardi. Ma non scordiamoci che dal governo Monti in poi l'imposizione sugli immobili è triplicata. Però questo quindi aiuta. Quindi appena 20 miliardi saltano fuori da questo aumento di imposizione. Immaginiamoci soltanto l'effetto che questa maggiore imposizione ha avuto su degli asset che sono diventati illiquidi. Oggi la gente non vuole più comprare le case e preferisce stare in affitto. Sì. E pensiamo anche alla maggior percezione di povertà che la gente ha. Ho capito, ma di fronte a questo, Fabio, la gente non dovrebbe ragionare, appunto, mi hanno portato, abbiamo visto, da 9 miliardi di ICI a 26 miliardi il totale delle tasse sugli immobili attese nel 2014, in 4 anni in buona sostanza. Beh, questo secondo me dovrebbe spingere gli italiani a riragionare sui loro immobilizzi. Però le due osservazioni che ho fatto, la risposta del professor Cannavale Maffè, quali sono? Sono che di un riaggiustamento nominale abbiamo certamente bisogno, il problema è che si può farlo con deflazione interna oltre che con svalutazione esterna, ci sono modi più intelligenti di quelli che stiamo usando adesso, per esempio modi più tecnologicamente avanzati, l'uso del contante è un modo molto inefficace per produrre deflazione interna, molto, molto regressivo e molto inefficiente, gli 80 euro andrebbero dati su coupon digitali e non in cash, perché sennò si trasformano o in risparmi probabilmente inutili, certo, o in nero o in esportazioni, no? In importazioni. Quindi c'è modo di fare un aggiustamento dei tassi reali con un'iniezione di tecnologia. Noi abbiamo un governo così impreparato, in generale un Parlamento che è così impreparato a capire che siamo nel 2014, non nel 1929. Vedi la cosiddetta tassa sull'equo compenso, tanto per essere chiaro. No, non mi far parlare di questo orca, se no litighiamo. Sul secondo punto di quelli che vuoi fare le riforme, ma che le facciano che smettano di parlare? No, la verità è che non credo che le riforme, se non quello di smantellare e ricostruire il welfare state. La mia tesi è molto semplice, di spending review non faremo nulla, facciamo uno zero base budget, cioè rialzeriamo tutti i diritti acquisiti e dopodiché ciascuno deve meritare i suoi nuovi diritti. Tu capisci, Carlo Alberto, che fare lo zero budget base significa la rivoluzione delle corporazioni italiane. Allora su questo io ti abbraccio, ti abbraccio, mi vengo a iscrivere, non so i nostri ascoltatori, continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani, che tra l'altro è l'ultima puntata perché poi ci sentiamo a settembre.